cerco te. Ti ho trovato, non ti lascio più. Fino adesso che vuoi, non ho incontrato mai l'uomo che ora vicino a me. È la forza che ti dà l'amore per rialzarti e poi volare sopra il mondo senza avere più paura di cadere giù. Perfetto se vuoi, la tua donna sarò per te. È la forza che ti dà l'amore per rialzarti e poi volare sopra il mondo senza avere più paura di cadere. È il profondo di quel mare, tu mi piaci da respond.